English Bit di Giulia Crivelli. Fur free. Italian fashion house Gucci to go fur free in 2019, says CEO. Remaining fur items to be auctioned as luxury brand prioritizes sustainability and follows Armani's 2016 lead. La casa di moda italiana Gucci sarà fur free nel 2018, ha detto l'amministratore delegato. I prodotti ancora in magazzino, in pelliccia, andranno all'asta. La sostenibilità diventa una priorità sulla scia di quanto fatto da Armani nel 2016. Il Guardian, come molti altri quotidiani, settimanali e siti di informazione di ogni lingua, ha dato grande risalto alla svolta eco annunciata dal CEO, che sta per Chief Executive Officer, amministratore delegato in italiano, di Gucci, Marco Bizzarri, in occasione di un evento sulla sostenibilità organizzato a Londra dal gruppo Kering, di cui Gucci fa parte. L'espressione che ci interessa è fur free, letteralmente libero dalle pellicce. Free come suffisso è utilizzato in molti altri casi, sugar free ad esempio, ma anche come prefisso o come parte di espressioni composte e ha diversi significati. Free floating significa libero di fluttuare, detto anche delle valute. Free for all è l'equivalente del nostro liberi tutti. L'abbassamento delle barriere tariffarie ha portato gli esportatori a sentirsi libero da ogni vincolo. In inglese si direbbe The lowering of trade barriers has led to a free fall among exporters. Free hand vuol dire a mano libera, come nel disegno. Freelance, come sappiamo, è qualcuno che lavora per diversi datori senza legarsi in esclusiva ad alcuno. Freestanding sta per indipendente, staccato dal resto. Può essere detto di una scultura, ad esempio, sospesa con un cavo al soffitto, o di una scuola che offre corsi al di fuori delle istituzioni pubbliche. Free to air indica i canali televisivi che non sono a pagamento. In italiano diciamo in chiaro. To free wheel significa andare in bicicletta senza usare i pedali. Poi ci sono le espressioni idiomatiche. Life was never going to be so free and easy again. La vita non sarebbe mai più stata così spensierata. E infine, I was given a free hand in designing the cover of the book. Mi fu data mano libera nel disegnare la copertina del libro.